24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:29 minuti, eccoci cari ascoltatori in diretta anche oggi fino alle 9 con 24 mattino. Oggi nel nostro sondaggio che potete già votare su radio24.it parliamo di case e potere e case e Vaticano, case e chiesa se volete. E vi chiediamo, alla luce di quello che sta emergendo dall'inchiesta sul G8, i grandi appalti, anche il coinvolgimento del Cardinal Sepe con l'indagine su di lui, se vi scandalizza che la Chiesa abbia un importante patrimonio immobiliare. Dovete votare su radio24.it, ne parleremo poi alle 8:30, ovviamente tra un'ora esatta. Ed ora questo è un tema che troviamo sui giornali come tanti altri temi, e allora i giornali andiamo a vederli. Infinity, autosportive che ispirano. Infinity, inspired performance. Vi presenta In primo piano. Giovedì 24 giugno, l'apertura per il secondo giorno consecutivo è più o meno scelta sulla vicenda Pomigliano-Fiat. Il Sole 24 Ore in realtà apre su ai comuni tassa unica sulla casa, scontro Tremonti governatori sui tagli, dunque la manovra, anche se in prima pagina c'è a Pomigliano, la Fiat va avanti un po' più in basso. Ma ripeto, tutti gli altri giornali, il Corriere, lavoriamo con chi ha firmato, questa è la posizione Fiat, così Repubblica, Fiat delusa, Pomigliano a rischio. La Stampa, Fiat avanti con il piano, per l'Unità secondo tempo. E c'è un fotomontaggio che mette insieme un po' il calcio e la Fiat. Fiat, lavoreremo con chi ha firmato per il Messaggero. Il Manifesto invece mette in prima pagina la foto di Marchionne abbracciato da Silvio Berlusconi. Crash test, il ricatto di Marchionne non passa. Vabbè, questo è il tema più importante ancora per i giornali come aperture, detto che se ne occuperà per il secondo giorno consecutivo Oscar Giannino alle 9, e dunque vediamo qualche spunto dai giornali, poi verrà approfondito alle 9. E Panda in bilico dopo il voto, così Andrea Malana, pagina 3 del Sole 24 Ore, spiega che cosa sono le strategie ora in ballo. Dopo il sì dei dipendenti di Pomigliano al referendum con il 63,4%, il 36% di no, ora che cosa si attende? L'alternativa è tra il progetto della cosiddetta New Co, cioè la nuova società che possa riassumere, permetterebbe di riassumere le persone che sostanzialmente vogliono firmare il contratto, oppure che cosa cambia nel piano Fabbrica Italia? Cambia qualcosa? Che strada sceglierà ora la Fiat? Potrebbe esserci o la scelta di produrre un modello diverso dalla Panda, un modello che possa comportare esigenze produttive meno stringenti della Panda e potrebbe necessitare di minori investimenti, ma un'ipotesi altra avanzata da fondi sindacali, un trasferimento della Panda verso lo stabilimento turco di Bursa con rimpatrio di alcune produzioni locali, una proposta che però sembra per Andrea Malan poco praticabile. Rimane sul campo quella della New Co, sicuramente un Sergio Marchionne che è definito molto irritato, tanto che il Corriere della Sera, la tentazione di Marchionne a pagina 3, Panda in bilico. Fiat conferma l'impegno ma non l'investimento programmato e il modello da produrre a Pomigliano, cioè la Panda. Che farà ora la Fiat? Questo è il tema su cui tutti si interrogano. Per Norma Rangeri, direttore del Manifesto, che firma in prima pagina per chi suona Pomigliano, l'editoriale, è molto dura, l'impresa ideologica non è riuscita, l'asse Tremonti-Sacconi contro i diritti costituzionali e sociali per segnare l'inizio di un'altra epoca nelle relazioni industriali deve fare i conti con una presenza operaia e sindacale che non si arrende, il 36% di no all'ipotesi di accordo nella fabbrica di Pomigliano è un risultato clamoroso per il Manifesto. Parla al Corriere della Sera il ministro del lavoro Sacconi. Lo fa in un'intervista di un'intera pagina a Enrico Marro, dedicata quasi interamente a questa vicenda della Fiat. Una svolta come per la scala mobile, agli operai sgravi fiscali per i nuovi sacrifici. È un Sacconi che dice: io non sono d'accordo con chi guarda i no, guardiamo ai tre quarti del bicchiere pieno e non alla piccola porzione vuota. So che un accordo come questo chiede di lavorare tre turni per sei giorni è impopolare, perché cambia la vita delle persone, soprattutto a Pomigliano, che è piena di giovani che considerano sacro il sabato sera. Non a caso l'intesa prevede due ipotesi sul sabato lavorativo che le parti sceglieranno come applicare. Però Sacconi dice: io tanto si dubita in questi casi, c'è chi dubita sull'utilità del referendum, ma come, lei non lo avrebbe fatto? Io tendenzialmente sono contrario ai referendum, credo nella democrazia delegata, specialmente in materia sindacale, ma una volta fatto il risultato è netto. I sostenitori dell'accordo hanno vinto, la FIOM ha perso. Questa dunque la lettura di Sacconi. In realtà molti osservano che non avevano scelta, hanno votato sì perché l'alternativa era chiusura dello stabilimento. Ogni giorno, risponde Sacconi, i lavoratori affrontano queste alternative tra forme di maggiore produttività e concreto rischio di perdere il lavoro. Che farà ora la Fiat? E tra l'altro, secondo il Corriere, Sacconi avrebbe sentito al telefono Marchionne ieri. Il comunicato dell'azienda è inequivoco, spazza via le supposizioni delle bocche storte, quelle che quando le cose vanno bene sperano in una negatività supplementare. Fiat conferma l'accordo, dice Sacconi, aggiunge un giudizio fortemente critico su chi non ha voluto sottoscriverlo e dice che lo attuerà con i sindacati firmatari, altro che rimetterlo in discussione. E questo, dice Sacconi, non si può pretendere che la Fiat e gli altri sindacati riaprano la trattativa dopo che la FIOM li ha offesi, accusandoli addirittura di mettere in discussione i diritti fondamentali dei lavoratori e la Costituzione. Come si può pensare tutto questo? Cioè che ci sia un nuovo accordo? Infine, è una lunga intervista, molto interessante ovviamente, quella di Pomigliano possa essere una svolta nelle relazioni industriali, nel senso che ci saranno molti accordi come questo. Segna una svolta, dice Sacconi, ma nel metodo, non nei contenuti. Cosa replica chi dice che così si destruttura il contratto nazionale? Che il contratto nazionale sarà sempre più una cornice leggera per assicurare i livelli essenziali di salario e tutela, ma che a livello aziendale e territoriale si giocherà il futuro delle nuove relazioni industriali collaborative. No, molto interessante questa è l'intervista di Sacconi, mentre ieri l'avevamo accennato che il PD, nonostante Enrico Letta dicesse la posizione del PD è questa, in realtà il PD è diviso su Pomigliano. Oggi la conferma viene da Rosi Bindi, che fa un'intervista a Repubblica, è presidente del Partito Democratico, e dico: sono contenta, i signor sì non hanno trionfato, bene che a Pomigliano non ci sia stato il plebiscito coatto di sì. Non tifo mai sulla pelle delle persone, quindi non ho tifato per i no. La vittoria dei sì ci dice che la Panda deve andare a Pomigliano, ma il 40% di no dimostra che l'accordo va considerato con grande serietà, presenta punti che non vanno. Non è pensabile che un accordo aziendale deroghi alla Costituzione e alle leggi. Mi riferisco al diritto di sciopero, ai congedi per malattia e ai permessi elettorali. Dunque, contenta, i signor sì non hanno trionfato. Alle 9, Oscar Giannino tornerà a occuparsi di questo tema. La pagina politica oggi è molto ricca, sono molto ricchi gli spunti dei giornali, vediamo se riusciamo a dare il più possibile. La pagina politica fa registrare un po' di fermento nella maggioranza. Intanto Berlusconi, che ieri pubblicamente per la seconda volta, in maniera più chiara rispetto a quello che aveva fatto in modo più edulcorato un paio di giorni fa, ha detto no alle correnti all'interno della maggioranza. Berlusconi no a chi sfascia il PDL, così titola Il Sole 24 Ore, pagina 16, Barbara Fiammeri, cioè attacco ai fedelissimi, basta correnti mascherate da fazioni. Non vuole Berlusconi, insomma, che ci siano tutte queste correnti, think tank, pensatoi, l'ultimo è nato domenica scorsa, perché si dà l'idea che ci siano correnti all'interno della maggioranza. Ma in realtà la vera fibrillazione dai giornali, tutti in vario titolo lo mettono in rilievo, è il rapporto tra Berlusconi e la Lega. Perché? Oggi La Stampa vi dedica maggiore attenzione con Federico Geremicca, che è il notista di politica. A Bossi questa nomina di Brancher definita da molti ancora misteriosa, non si capisce il vero motivo, non è piaciuta per niente. Il Corriere della Sera parla di un vero e proprio, anche una vera e propria sfuriata di Bossi con Calderoli, che è l'unico della Lega che avrebbe saputo veramente, sarebbe stato veramente informato fin dalle prime battute della nomina di Brancher. Calderoli, il caso Brancher e i sospetti del Senatur, sul Corriere, voci di una sfuriata col ministro della semplificazione, che però dice a Pontida, andate a sentirvi il discorso, Bossi mi ha elogiato 4 volte pubblicamente, è tutto a posto. Ma già il Foglio un paio di giorni fa diceva Calderoli era quello che sapeva di più, quello che ha spinto di più per Brancher, una nomina che Bossi non ha voluto, tanto che a Pontida ha detto il ministro del federalismo, sia chiaro, sono io. Allora, ieri hanno cambiato, dall'attuazione del federalismo hanno cambiato la dicitura del dicastero a Brancher. Ora pare che Bossi proprio voglia spostarlo. E quale sarebbe il gioco politico? Mettere Brancher all'agricoltura e prendere Galan, che è all'agricoltura, e metterlo allo sviluppo economico, cioè l'interim che tiene Berlusconi. Di tutto questo avrebbe parlato Bossi, e qui vengo alla stampa, ieri ricevuto da Napolitano. È andato al Quirinale e tra l'altro, vedete come la politica è anche interessante quando si intreccia così, tra l'altro Federico Geremicca spiega: per questo Bossi avrebbe chiesto scusa alla nazionale italiana dopo averla accusata, comprando la partita, perché pare che il Quirinale abbia fatto sapere, guardi, prima di venire al Quirinale magari faccia un passo indietro rispetto alla padanata, come l'aveva definita Libero, che ha fatto ieri. Infatti Bossi ha detto chiedo scusa alla nazionale e dopo un'ora è stato ricevuto al Quirinale. Ebbene, sono due i punti che farebbero va a avere un mal di pancia Bossi in questi giorni. Il primo è proprio il federalismo, il fatto di avere la competenza unica e assoluta della Lega, quindi no Brancher lì. La seconda è che il Carroccio è sempre più preoccupato per il crescere delle tensioni politiche e teme che a rimetterci le penne possa essere proprio il faticosamente avviato processo federalista. E dunque irritazione, scrive Federico Geremicca, legata alla vicenda della nomina ministro per il federalismo di Brancher, un vero giallo di cui sono ancora incerti i vari passaggi, mentre è sicurissimo il nome del danneggiato finale, Bossi, appunto. E allora vedete anche qui il Giornale: la Lega vuole un altro ribaltone nei ministeri. Bossi ha deciso a eliminare il dicastero del federalismo, dirottare Brancher all'agricoltura, riportandola sotto la sfera di influenza del Carroccio, perché Brancher è un fedelissimo comunque della Lega, e per questo vorrebbe che Galan andasse allo sviluppo economico al posto dell'interim di Berlusconi. Per quel che riguarda invece la politica, devo prendere in mano il Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano oggi fa un titolo molto forte che farà sicuramente non piacere al neogovernatore della Calabria, Scopelliti. Scopelliti con la scorta alla festa con i boss. Il governatore e l'imprenditore arrestato per mafia. Enrico Fierro a pagina 5 racconta una vicenda che risale al 15 ottobre però non si dice di che anno, almeno all'inizio, vediamo di capire all'interno dell'articolo. Si tratta di una splendida festa, Villa Felice, lungomare di Gallico. Si celebrano le nozze d'oro dei coniugi Barbieri e i figli Vincenzo e Domenico hanno voluto fare le cose in grande, solo che Domenico Barbieri, detto Mimmo, da ieri mattina è in carcere. E allora a quella festa, ecco, del 15 ottobre 2006, in cui si festeggiavano l'anniversario di nozze dei genitori di Domenico Barbieri, e quella festa arrivò anche l'allora sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti, il politico che in quel momento va per la maggiore a Reggio. Arriva alla festa in compagnia di Manlio Luigi Flesca, suo fedelissimo eletto in consiglio comunale. Arriva alle 13.45, i carabinieri del ROS, appostati nei pressi del ristorante dove c'è il banchetto, annotano la presenza della Lancia K con lampeggiante intestata alla questura di Roma e usata dal sindaco, che si trattiene poco più di un'ora. Va via infatti alle 14.45, perché alle 17.45 inizia la partita Regina Roma e il primo cittadino non può mancare. Calabria, il governatore alla festa di 'Ndrangheta. Questo è il titolo molto molto forte del Fatto. Sicuramente oggi Scopelliti avrà da fare per chiarire questa vicenda. Oh, c'è anche molto di economia. Intanto l'apertura del Sole 24 Ore, cioè qualcosa legato alla manovra, la service tax in arrivo ai comuni, nuova tassa con ICI, IRPEF, imposta catastale di registro. L'ipotesi è questa: entro 2 anni ci sarà una nuova imposta sugli immobili che raggrupperà tutte le imposte. L'ICI dalla seconda casa in poi, cioè non è che rispunta l'ICI, quella dalla seconda casa in poi, l'imposta ipotecaria e catastale, quella di registro e la quota IRPEF sul mattone, che potrebbe arrivare sotto forma di cedolare secca. Questo è il tema che è stato proposto ieri da Tremonti e da Calderoli ai sindaci. Chiamparino al Sole 24 Ore confessa: una tassa unica sarebbe molto importante, ci darebbe maggiore autonomia, ma a quell'appuntamento vogliamo arrivarci vivi. E qui è il tema dei tagli, e con Tremonti ancora, che ieri ha incontrato le regioni, ha detto: i tagli sono intoccabili, la manovra non si tocca. E qui ci sono le polemiche. A questo proposito, sempre di economia e finanza, segnalo solo, prima del traffico, 2 interviste. La Repubblica, con Elena Polidori, intervista a Francoforte Jean-Claude Trichet, il presidente della Banca Centrale Europea, che dice: la manovra italiana, come quella di tutti i paesi, è sotto esame. Manca l'analisi della manovra nei dettagli, un giudizio preliminare della Commissione c'è già, un giudizio che peraltro non dà, come Jean-Claude Trichet, molto sulle sue. Quali sono i paesi più a rischio dopo la Grecia? Dice: non ho commenti da fare, ma sulla Spagna e le banche ho appena risposto alla domanda. Insomma, anche sulla manovra italiana chiediamo a tutti gli stati rigore, abbiamo già un giudizio preliminare, ma manca l'analisi dei dettagli. Il Repubblica titola: manovra italiana sotto esame, ma sì, come tutte le manovre, ma non si capisce il giudizio vero che si è dato. Mentre l'altra intervista che segnalo, che ha al centro la lotta all'evasione fiscale, il Sole 24 Ore con Fabrizio Forché e Marco Mobili, intervista al neo comandante della Guardia di Finanza Nino Di Paolo, che dice: la cosa più forte, certo l'evasione fiscale, come combattere eccetera, la cosa più forte che dice è questa: il segreto bancario non ha più senso. L'azione in confronto a Svizzera e San Marino, facciamo l'azione diplomatica, facciamo l'azione di pressione, devono capire che aprirsi a un loro interesse, perché deve ancora esistere il segreto bancario? La crisi ha dimostrato che ormai è anacronistico. Come abbiamo fatto col terrorismo, dobbiamo riuscire a entrare in tutti i santuari. E il neocomandante della Guardia di Finanza si presenta così. In primo piano. Il cardinal Sepe ha anche un bosco. Questo è il titolo di Libero, che parla di case e chiese, o poteri immobiliari, proprietà immobiliari e chiese, Vaticano. Questo è il tema del nostro sondaggio, vi stiamo chiedendo: case e Vaticano, vi scandalizza sapere che la chiesa abbia un importante patrimonio immobiliare? E Libero fa sapere questo. Tra l'altro la firma è singolare: Oscar Fembik, è sempre un anagramma di Franco Bechis, che si firma con tanti strani nomi, no? C'è Franco Bechis, che è il vice direttore di Libero. Ogni tanto, se leggete Fosca Binker, è sempre lui. Chris Bonface, è sempre lui. Ora Oscar Fembik, sono tutti anagrammi del suo nome. Curiosa questa cosa di Franco Bechis. E il cardinal Sepe ha anche un bosco e si è fatto anche la casa editoriale. E tra l'altro, l'altro tema invece che esce sui giornali, sempre legato a G8 Appalti, è questo: Sepe, il bambolone e Lady Scaiola. Lo leggo dal Secolo XIX, quando Propaganda Fide promise di fare in Piazza di Spagna un museo, l'Espresso rivelò, e oggi è uscito dalle carte, che Sepe aveva deciso di inserire chi come consulente nel comitato scientifico: la moglie dell'ex ministro Scaiola, la signora Maria Teresa Verda. Questa è una nuova vicenda che è venuta fuori, tanto che anche vari giornali titolano anche il fatto: la moglie di Scaiola voluta da Sepe per il museo di Propaganda Fide. Allora qui si adombra ancora l'idea di intrecci eccetera. Il Foglio: per una chiesa ricca, sembra l'editoriale fatto apposta per parlare del nostro sondaggio. Non sapremmo niente di San Francesco se la chiesa fosse povera in canna. È un editoriale in cui si parla dei valori della Chiesa, certo, l'importanza di sostituire alle 3P del profitto, prodigio e potere, le 3P di parola, progetto e protesta. Come si può dissentire da questa retorica? Scrive in questo editoriale Il Foglio. In realtà, Povera materialmente può essere una chiesa rinunciataria, questo sì, che vive soltanto nei cuori, ma al mondo laico e disincantato conviene una chiesa ricca, per quanto non arrogante e mite e pulita nei modi, in grado di difendere la propria libertà e con essa la libertà generale nello spazio secolare. Oltretutto, si legge sul foglio, se la chiesa fosse povera in canna non sapremmo niente di Madre Teresa e nemmeno di Santo Francesco. Allora, sconvolge, vi scandalizza che la Chiesa abbia un importante patrimonio immobiliare? Rispondete su radio24.it alle 8.30, approfondiremo. E ora, alle 16, la partita. Fratelli d'Italia, così titola in prima pagina la Gazzetta, tutti uniti, anche Bossi, forse perché doveva andare al Quirinale, comunque anche lui ha chiesto scusa. Si apre invece il problema, già ieri ne abbiamo affrontato la zanzara, di Brunetta. Brunetta spegne la TV negli uffici pubblici. Stavolta si gioca alle 16, non è domenica come domenica scorsa, si gioca alle 16 infrasettimanale. Brunetta ha detto i 3.650.000 dipendenti pubblici lavoreranno e al lavoro la TV si tiene spenta. Aprendo questo dibattito, mentre in tutte le aziende, anche al Sole 24 Ore, si dà la possibilità di vedere la partita come momento di aggregazione, perché in quell'ora e mezza, se uno magari si rilassa, poi recupera, lavora meglio. Questa, secondo me, è una visione un po' più, no, come dire, moderna. Invece Brunetta, l'inflessibile, ha detto si lavora, al lavoro la TV è spenta, io lavoro. È solo che niente match per gli statali, maxi schermi per i deputati, sul Messaggero, alla Camera tutti fermi, lo fa sapere a pagina 6 il Messaggero. Nella sala Berlingueri il PD ha organizzato anche 90 posti a sedere, chiuse le tapparelle per creare l'effetto cinema. L'UDC alle 4 doveva incontrare il Vescovo di Ivrea, anticipato tutto alle 13.30, perché prima del Vescovo di Ivrea viene il Dio Pallone. E al Senato il berlusconiano Fleres giura, noi lavoreremo alla manovra, anche durante Italia-Slovacchia, chi lo sa. E quindi tutti a vedere la partita, l'Italia di Lippi gioca, il paese si riposa anche per Libero. Insomma, la vedrete, cari dipendenti pubblici, chissà. In bocca al lupo. Intanto segnalo solo a concludere, l'avete sentito anche nel GR, l'incredibile sta avvenendo a Wimbledon, la partita più lunga della storia di tennis, oltre 10 ore, non è ancora finita, due giocatori di medio livello, peraltro, sono 59 pari al quinto set, visto che non c'è il tie break al quinto set, per chi avvezza al tennis, 59 pari, sono in campo da oltre 10 ore, oggi riprendono, ieri hanno finito per l'oscurità. E allora segnalo solo da leggere sempre l'imprescindibile il maestro Gianni Clerici, oggi su Repubblica. 8:18 minuti, eccoci con Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Siamo qui, cara sì, Deborah. Caro mio, siamo qua, sempre qua. Buongiorno. Fortissimamente qua. Sì, parliamo del nostro risparmio stamattina. Benissimo. Caro Alessandro, perché come tu sai gli italiani sono un popolo di risparmiatori, abbiamo uno stock di debito privato piuttosto, come dire, contenuto e un tasso di risparmio invece molto alto, e il nostro mondo di risparmio appunto è molto rivolto ai titoli di Stato italiani. E tra l'altro il fatto di essere un popolo di forti risparmiatori è un aspetto molto importante, perché ci ha protetto non poco anche dalla terribile crisi degli ultimi due anni. Tornando ai titoli di Stato, anche se ora non rendono in misura particolarmente soddisfacente, gli italiani non cambiano le loro abitudini e continuano a sottoscrivere BOT e CCT. E proprio sul CCT però c'è una novità. Allora, magari può apparire anche un po' come dire, complesso parlare di questo argomento a quest'ora, però ci sono molti ascoltatori che ci hanno scritto chiedendoci di fare un po' di chiarezza su questo tema, perché ne hanno letto sui giornali, magari famiglie italiane che hanno già sottoscritto uno strumento di investimento di questo tipo dal Tesoro, il CCT. Adesso arriva un cambiamento, perché il Ministero dell'Economia ha fatto sapere che sostituisce il CCT, il certificato di credito del Tesoro, con un nuovo titolo che si chiama CCT EU, cioè è ancorato all'Euribor. Possono apparire termini complessi, ma in realtà sono molto più vicini a noi di quanto non pensiamo, perché per esempio l'Euribor, che è questo tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie fra le principali banche europee, è anche il tasso a cui molte famiglie hanno agganciato il proprio mutuo. E allora, cosa cambia per i risparmiatori? Stamattina abbiamo interpellato un esperto di risparmio, Corrado Capacci, direttore generale di Compass Asset Management. Dottor Capacci, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori. Allora, intanto, perché il Ministero dell'Economia ha voluto fare questo cambiamento? Noi abbiamo letto un po' di cose per garantire maggiore liquidità a questo strumento di risparmio, che forse però, ecco, è molto diffuso fra gli italiani, ma rispetto ai bot forse un po' meno diffuso. Dottor Capacci. Ma sì, diciamo forse sì, forse un po' meno diffuso, ma comunque una storia di CCT ce li ha e il pubblico penso che riconosca più di quanto il suo commento introduttivo forse voglia lasciare intendere. Diciamo che il tesoro si è mosso in questa direzione perché abbiamo fior di professionisti senza volto e senza nome per l'opinione pubblica nel nostro ministero che sanno fare molto bene il loro lavoro di gestione del debito pubblico, che è un lavoro di un'incredibile importanza per un paese come il nostro, che ha un debito pubblico grosso sia per dimensione che assoluta che in relazione al PIL, no? E quindi queste persone che gestiscono il debito pubblico cercano in tutte le maniere di creare dei prodotti per raccogliere soldi per il governo che spiacciano al mercato sostanzialmente. Allora la storia del CCT nasce come un bot che si rinnova automaticamente, diciamo, perché sostanzialmente aveva delle cedole indicizzate al bot e quindi a retail veniva venduto, appunto, invece che comprare tutti i sei mesi un nuovo bot, compri una volta il CCT, lo tieni e fondamentalmente... E aveva una durata media di 7 anni, se non ricordo male. Sì, le prime emissioni erano più corte, poi alla fine si è standardizzata una emissione di 7 anni come regola, no? E quindi sostanzialmente era un prodotto prettamente domestico in origine, venduto come un bot che si autorinnova, con buona sostanza. Negli anni con il debito pubblico che si è internazionalizzato come base di investitori, il problema di avere l'indicizzazione ancorata ad un tasso che è prettamente domestico come quello del bot è un po' un problema la diffusione sul mercato internazionale, perché sul mercato internazionale fa perno più sull'Euribor, quindi su un tasso che abbiamo visto nel corso del 2007-2008 non è esente da anomalie e da fluttuazioni strane, però è il tasso che fa da riferimento alle tesorerie bancarie e alle tesorerie delle società. Ecco, però proprio su questo aspetto, Capacci, mi vorrei soffermare perché è piuttosto interessante. Diciamo che la sottoscrizione di CCT era stata indotta anche perché magari gli italiani si sentivano tranquilli a giocare in casa. Adesso potrebbero essere però un po' meno tranquilli di fronte ad un nuovo strumento che è legato ad un tasso europeo, non più sostanzialmente, come dire, quasi ad un tasso domestico, era un rinnovo automatico dei bot a 6 mesi. Non potrebbe indurre maggiore distacco? Ma onestamente, allora, lo scarto tra i tassi Euribor e i tassi del bot, al di là di qualche episodio di circostanze eccezionali che si è verificato magari durante il 2007-2008 con la crisi di liquidità delle banche che ha fatto salire l'Euribor in maniera anomala, e magari in casi opposti in cui ci sono state delle aste dei bot particolarmente squizzate, come si dice in termine tecnico, quindi con un'eccessiva domanda rispetto alla quantità offerta e che in qualche occasione in passato hanno determinato dei tassi troppo bassi, diciamo che in generale si muovono abbastanza insieme, sempre un tasso di money market è sempre un tasso di 6 mesi di durata è, e quindi non c'è tutta questa variazione a livello fondamentale che un investitore possa temere. Ci rimangono pochi istanti, 1 minuto e mezzo, Capacci, vorrei andare subito nel pratico. Per chi ha già un CCT in portafoglio e entro qualche ora credo che il Ministero provvederà questa sostituzione, che cosa gli cambia? Deve andare in banca e fare la sostituzione o non cambia niente? Ecco. No, non cambia assolutamente niente. Questo è un progetto che riguarda delle nuove emissioni. Stanno introducendo in questi giorni una nuova emissione inaugurale ancorata all'Euribor che viene fatta tramite un collocamento istituzionale. Quindi non va al popolo dei piccoli risparmiatori, al momento sono gli istituzionali. Sul secondario dopo viene offerta in scambio a delle emissioni preesistenti e come nuova emissione, però è chiara l'intenzione del Tesoro di rimpiazzare le future emissioni con un parametro di indicizzazione ancorato all'Euribor, e questo è un qualcosa che porterà a una maggiore efficienza nella già molto efficiente gestione del debito pubblico italiano, a tutto vantaggio, direi, più che dei risparmiatori, dei contribuenti. Speriamo di aver fatto esattamente chiarezza. La ringrazio, le auguro buona giornata, Capacci. Buona giornata, a presto. Anche a voi. Arrivederci. Alessandro, invece io oggi mi occupo di prestiti a Salvadanaio, in particolar modo di un tipo di prestito che è quello vitalizio. Benissimo. Ciao. Vedrai la partita alle 4. Certamente. Qua non c'è Brunetta, quindi possiamo tenere. Possiamo? Non è che il direttore poi ci sgrida, ci prende a bacchettate sulle mani? No, c'è un bel televisore grande dove tutti possiamo vedere come momento di aggregazione la Benissimo. Partita. Benissimo, allora meglio mi aggrego a te così l'entusiasmo ti prende. Così lavoreremo prima e dopo. Siamo qua praticamente 25 ore. Ci vediamo qua direttamente all'ora domattina, Alessandro. Poi tu che fai anche la zanzara, figuriamoci. Io infatti ho la branda qua, ma finirà presto. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Se volete invece votare su radio24.it, il nostro sondaggio di oggi, parliamo di beni immobiliari e di Chiesa e di Vaticano, la vicenda che ha coinvolto, sta coinvolgendo anche il Cardinal Sepe. Si pone l'accento sull'immenso, qualcuno dice sterminato, patrimonio immobiliare della Chiesa. Vi chiediamo, questo vi suscita qualche imbarazzo, vi sconvolge, vi crea sconforto questo immobili in mano alla Chiesa, oppure secondo voi è assolutamente normale? Le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, nel nostro sondaggio di oggi parliamo di case e Chiesa, di case e Vaticano, di case e potere. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, ieri Libero titolava così: le 761 case del Cardinal Sepe. Franco Bechis ha analizzato un po' tutto il patrimonio immobiliare che dipende dalla Sacra Congregazione di Propaganda Fide, che è questa congregazione che deve curare anche tutte le missioni della Chiesa nel mondo, e i tesori del Cardinale, così era la dicitura, un patrimonio immobiliare che viene identificato attorno al 1,287 milioni, solo 725 fabbricati e 325 terreni a Roma. Vi scandalizza tutto questo? Oggi sul Foglio c'è un editoriale per una Chiesa ricca. Si parte da un libro del vescovo emerito Giuseppe Casale, Viva la Chiesa povera, priva di potere, con un papa minuscolo che abdica la potestà sulla Santa Sede al titolo di capo di Stato, con la rinuncia unilaterale al concordato con lo Stato italiano, con la profezia al posto della diplomazia. E ci si chiede in questo editoriale come si può dissentire da una tale retorica che si fonda sul dettato evangelico stretto, sulle beatitudini impossibili. In realtà, al mondo laico e disincantato conviene una Chiesa ricca, per quanto non arrogante, mite e pulita nei modi, in grado di difendere la propria libertà e con essa le libertà generali nello spazio secolare. Oltretutto, se la Chiesa fosse povera in canna, non sapremmo niente di Madre Teresa e nemmeno di Santo Francesco. Allora, vi scandalizza questo? Vi chiediamo, che la Chiesa abbia un importante patrimonio immobiliare? Vi turba sentire anche quello che si sente sui possibili intrecci, affare, potere, chiese, potenti? Ne parliamo con la professoressa Lucetta Scaraffia. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. Insegna Buongiorno. Storia contemporanea alla Sapienza, poi voglio ricordare è anche editorialista dell'Osservatore Romano. Mario Staderini, segretario dei Radicali Italiani, benvenuto e ben ritrovato anche a lei, Staderini. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, professoressa Scaraffia, a lei turba un po' leggere quello che si legge, se pensare che Propaganda Fide sia scambiata e definita come l'immobiliare del Vaticano? Mi dà fastidio che venga trattata in questo modo, però Propaganda Fide, che ha una lunga e antica storia, è costituita dal patrimonio immobiliare che nei secoli è stato donato alla Chiesa per le missioni. Cioè, la Chiesa è un'istituzione missionaria, le missioni costano tantissimo e quindi tuttora costano tantissimo e quindi c'è bisogno di una struttura economica per reggere le missioni. Naturalmente le strutture economiche servono moltissimo, sono servite a fare cose splendide, mirabili nella storia della Chiesa. Basti pensare alle missioni africane di Comboni nell'Ottocento, che sono andate nella valle del Nilo quando nessun uomo bianco era ancora andato, portando anche medicine, aiuti hanno portato all'ordinazione di sacerdoti neri. Nel 1840, in piena età coloniale, quando invece le potenze laiche trattavano i neri come classe inferiore, come razza inferiore, e nello stesso tempo però il denaro ha sempre attaccato a sé quell'aspetto di tentazione, di spreco, di approfittamento. Sì. Quindi la Chiesa è sempre tutte e due le cose. Tra l'altro, quello che però emergerebbe dall'inchiesta è anche un fiume di denaro pubblico, questa società Arcus creata anche per ristrutturare immobili della Chiesa, per carità, di pregio storico e di valore. Questo intreccio, che forse è quello sul quale Staderini poi ci dirà qualcosa come critica, è un qualcosa che dovrebbe far sobbalzare gli italiani, magari soprattutto i laici. Lo chiede sempre sì, a me? Sì. Ah sì, scusi. Beh sì, però questo è un problema dello Stato. Cioè, lo Stato credo che abbia dato dei fondi, per esempio per il Giubileo, per la ristrutturazione di tutte le case antiche di Roma. Quindi che l'abbia dato anche alla Chiesa, che possedeva un patrimonio di opere, di case antiche molto belle, forse non stupisce. Però probabilmente se ne ha dato troppo, se l'ha dato male, questo è un problema di magistratura, cioè, che riguarda però le persone. Cioè, io penso che noi in questa situazione, in questo caso, dobbiamo distinguere sempre fra delle prassi che in sé non sono sbagliate all'applicazione che le persone possono fare sbagliata. La responsabilità penale, ricordiamo, è sempre personale. Sì. Magari ci arriveremo. Staderini, lei ha parlato ieri addirittura di reato di nuova simonia di Stato in un'agenzia. Addirittura, ci vuole spiegare innanzitutto cos'è la simonia, magari per chi non è avvezzo, e perché ha usato questo termine? Sì, esattamente. Beh, io credo innanzitutto che le cronache di questi giorni appunto confermano quanto noi radicali da anni denunciamo, ovvero che quell'enorme di fiume di denaro di cui lei ha parlato e i grandi privilegi che l'Italia, ha ragione la professoressa, garantisce al Vaticano, hanno un effetto chiaro, quello di inquinare la vita pubblica del nostro paese e della stessa Chiesa Cattolica. È quello che è stato in passato la simonia. Nel Medioevo con la simonia si descriveva la compravendita di cariche ecclesiastiche e dell'assoluzione dei peccati. Oggi invece la simonia è rivolta ad acquisire appoggi politici e favori materiali. In pratica, con l'immenso patrimonio immobiliare, che ricordiamolo non è solo di Propaganda Fide ne gestisce una grande parte, ma ci sono 2000 enti ecclesiastici che hanno un patrimonio immobiliare immenso complessivamente, è stato utilizzato ormai dagli ultimi 10-15 anni in particolare per blandire la classe dirigente italiana, proprio l'effetto di simonia di cui parlavo, ovvero un VIP, un giornalista che poi magari deve parlare bene o fare una trasmissione su un caso ad esempio di testamento biologico o di eutanasia, oppure il dirigente dei beni culturali che deve dare un finanziamento o che deve dare un cambio di destinazione d'uso affinché un convento venga trasformato in struttura turistica, in albergo, non ha i soldi per vivere in una casa di lusso nel centro o per comprarla, ed ecco lì che si mette a disposizione una delle case. A lei dà fastidio, non so, sapere che il politico poi può essere, tra virgolette, ricattabile politicamente dal Vaticano perché alloggia in una casa di Propaganda Fide. Nel momento in cui, facciamo l'esempio, il capo della polizia italiana vivesse in una casa di uno Stato estero come quello del Vaticano, sicuramente ci sarebbe qualcosa da dire all'estero. E di qui ci sono i due discorsi: da una parte quello pastorale, perché in quelle case che oggi sono state date ai ricchi, in realtà fino a pochi anni fa ci vivevano persone, anziani, disabili, che sono stati sfrattati a partire dalla fine dell'ecocanone nel 98 proprio per questa strategia simoniaca e speculativa. E questo è il problema vero per chi vive all'interno della Chiesa, e per lo Stato italiano diventa un problema diverso. C'è questa capacità, tra virgolette, di inquinare inquinamento della vita pubblica, e allora quello che noi da sempre chiediamo da una parte è un censimento grande degli immobili del Vaticano in modo da, sapere, da essere certi ed evitare che si ripetano storie di opacità, e dall'altra però eliminare quei privilegi fiscali, cioè il fatto che siano equiparati a enti di beneficenza nel momento in cui utilizzano il loro patrimonio, molto spesso peraltro frutto di donazioni di signore, per strategie speculative che sono legittime nel momento in cui però non si hanno quei privilegi che i cittadini non hanno. Allora, siccome la professoressa Scarafia è una storica innanzitutto, professoressa, qui c'è l'accusa di reato di nuova simonia, cioè la vendita di, o meglio, utilizzare questo patrimonio immobiliare per acquisire appoggi politici, mettere il politico che poi non parlerà mai del Vaticano, non voterà contro il testamento biologico o in un certo modo per il testamento biologico perché insomma è in una casa del Vaticano. Ho capito perfettamente. Guardi, intanto la simonia è quando viene fatta dall'istituzione della Chiesa, a parte la simonia tecnicamente, come ha ricordato prima, è quando si vendono gli uffici ecclesiastici. Sì. In questo caso non vengono venduti uffici ecclesiastici. Una nuova simonia. Non la chiamerei simonia, la chiamerei corruzione. Io penso che la corruzione, se c'è stata, perché deve essere ancora provata naturalmente, perché io penso che se l'esempio che faceva prima, che il capo della polizia abitasse nella casa di un altro Stato, il problema è che se paga un affitto equo, perché per dire l'ambasciata russa potrebbe possedere delle case a Roma e affittarla a chiunque. Invece Staderini fa un'altra questione, cioè al di là dell'affitto equo, dire il fatto che viva in una casa è in qualche modo, chissà, o ricattabile o comunque portato. Secondo me quello no, perché no. È chiaro che se uno ha un patrimonio immobiliare lo affitta. Il problema non è l'affitto, il problema è l'equità dell'affitto, i lavori, la vendita, cioè il problema sono se questa cosa prende forma di favore oppure appartiene a una transazione. E quindi non è anche a chi si affitta, perché molti, guardi, da giorni ci dicono: ma se la missione anche di Propaganda Fide è quello di utilizzare i beni di cui a disposizione per guadagnare soldi e quindi favorire le missioni, perché non si danno per esempio alle persone indigenti, alle persone, perché ci sono tanti tra virgolette potenti in queste case? Nel centro di Roma che si vuole che vengono date, se vengono date agli affitti, io non lo so, ma voglio dire agli affitti correnti vengono date a persone che li possono pagare, quindi affitti molto alti. Tutto il centro di Roma, non solo le case di Propaganda Fide, in questi anni è stato ristrutturato e riqualificato e non è più abitato dalle persone povere che abitavano una volta pagando affitti risibili. Una volta che uno ristruttura completamente una casa, l'affitta più cara. Il problema è se l'affitta più cara, cioè io non ho nulla contro il fatto che Propaganda Fide cerchi di ottenere di più dal suo patrimonio per aiutare le missioni, che è il suo compito. Se lo fa, se fa questo, lo fa onestamente, lo fa bene, fa pagare gli affitti regolari, a questo punto è ovvio che gli affitti regolari li pagheranno persone benestanti, perché nel centro di Roma io non so, sì, non certo, vivo nel per esempio, di Roma, per dirne una, perché non mi potrei pagare l'affitto di una casa. No, ma è chiaro, qualche giorno fa in Rai, in una trasmissione della Pallombelli, Bruno Vespa ha detto: io ho ristrutturato tutto, sono in una casa affittata a Propaganda Fide, pago, ieri l'abbiamo fatto sentire alla Zanzara, 10.000 euro al mese d'affitto. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che per ora il 67% degli ascoltatori votando dice sì, insomma, un po' ci scandalizza che la Chiesa abbia un importante patrimonio immobiliare, ma questa è l'opinione degli ascoltatori. Voglio sentire a proposito Francesca da Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Dica, lei è scandalizzata? Niente, io appartengo alla categoria degli scandalizzati. E perché? Da cattolica praticante. Perché stamani una figura che manca, per esempio un missionario comboniano, e potrebbe dire veramente, se non ci fosse aiuti dai cattolici veramente che si impegnano, quanti aiuti hanno avuto dal Vaticano rispetto alla miseria del terzo mondo. Sarebbe molto interessante anche sapere questo. Ma lei è scandalizzata perché... Molto, molto. Il contrasto tra una ricchezza così sfacciata tanta povertà nel mondo e poco aiuto. A questo proposito, a questo proposito, grazie Francesca. Voglio ancora un attimo dalla professoressa Scarafia, poi vado a Staderini. Professoressa, io ho letto all'inizio l'editoriale, quello del Foglio, cioè molti ci dicono anche: ma il messaggio della Chiesa di Gesù Cristo, della povertà, o di San Francesco, di Madre Teresa di Calcutta, cioè a lei questo sfarzo, come dice l'ascoltatrice, non pone anche una questione di dire forse si è perso un po' il messaggio vero della Chiesa, oppure va bene anche una Chiesa ricca, come dice il Foglio? Perché... Ma la Chiesa nella storia ha tramutato la ricchezza in opere d'arte. Roma è la prova che se non c'era Chiesa, non fosse stata ricca, non ci sarebbe questa città meravigliosa con chiese e opere d'arte commissionate dalla Chiesa nei secoli. Questo è un ruolo della Chiesa che è stato fondamentale, che spesso si dimentica. Arte in onore di Dio, però arte. Io vorrei, penso che noi viviamo ancora, lo Stato italiano e il turismo italiano vive ancora di tutti gli investimenti che nei secoli la Chiesa ha fatto in arte. Quindi se la gente viene a vedere Caravaggio, viene a vedere Raffaello, viene a vedere Michelangelo, è perché c'è stato un investimento artistico della Chiesa. Quindi il denaro serve anche a creare arte in onore di Dio, però creare arte, per esempio, questo non va mai dimenticato, questo aspetto che è molto importante. Poi il denaro serve anche ad aiutare le popolazioni. Certo che il mondo è poverissimo ed è immenso, il patrimonio di Propaganda Fide sarà pure di 600 più case, però rispetto ai bisogni del mondo è comunque una goccia nel mare. Sì. Io vorrei però e spererei che tutto quello che si può fare venga fatto per la povertà del mondo. Poi se c'è qualcuno che con responsabilità sua personale, invece di mandare i soldi alle missioni, se li mette in tasca, questo appartiene alla normalità, sì, alla sfera personale risponde, certo, di questo. Ma non si può per quello dire che la Chiesa non deve avere i soldi perché qualcuno ruba. No, chiaro. Staderini, l'accusa appunto è questa, cioè confondere gli eventuali errori personali con un sistema che voi in qualche modo mettete sotto accusa, cioè la responsabilità è personale, se qualche uomo di Chiesa ha sbagliato risponde lui e non la Chiesa. No, infatti non si tratta di mele marce, ma si tratta di un sistema strutturato. Lo stesso Cardinal Sebe l'ha detto chiaramente, i soldi che lui intascava, Propaganda Fide, li dava all'APSA, cioè all'amministrazione del patrimonio della Santa Sede, che risponde direttamente. Beh, però non dica così, cioè non è che ha ammesso colpevolezza, ha detto è tutto trasparente, perché... No, ha ammesso che il denaro ricavato dalla vendita del palazzo al ministro Lunardi, sì, eccetera eccetera, è stato dato all'amministrazione della Santa Sede. Questo per dire cosa? Come dicevo, oggi si sta tentando di scaricare su una persona, il Cardinal Sebe, e su un istituto, Propaganda Fide, quello che invece è un sistema, utilizza una strategia di messa a reddito del patrimonio immobiliare fatta da tutti. Ancora oggi mi chiamano decine e decine di sfrattati, non da Propaganda Fide, ma dall'APSA, da altri enti ecclesiastici, che sono sfrattati avendo 75 anni, essendo disabili, essendo famiglie disagiate, perché non possono permettersi quegli affitti che invece sarebbero altri. Quindi è strano fare beneficenza cacciando dei poveri. Però lei non crede che effettivamente l'obiezione di dire il problema è se l'affitto è equo oppure no, cioè a livello di mercato? In 20 secondi qual è il sistema? Il sistema è molto semplice. L'affitto, come è risultato peraltro dalle cronache di giornali, a parte il caso di Vespa, ma poi ne parleremo magari un altro giorno, l'affitto funziona così: l'affitto viene scontato sulla base delle ristrutturazioni. Infatti, guarda caso, è uscito fuori la lista di anemone con tutte le che poi veniva anemone o chi per lui a farti magari la ristrutturazione. E vabbè, questa è una questione poi che vedrà la magistratura. Ieri avevamo per esempio alla Zanzara la consigliere comunale di Roma Cirinnà, che è la compagna del vicepresidente Stellino Montino, del vicepresidente della regione, che ci ha spiegato perché per anni ha pagato in un palazzo di Propaganda Fide in affitto 360 euro di affitto. Oggi invece Propaganda Fide, per diciamo regolarizzarlo a livello di mercato, chiede per lo stesso appartamento 3.000 euro di affitto al mese. Ma lo dicono: noi abbiamo fatto delle strutture situazione a nostre spese, senza anemone, non c'entra niente, e questo ci avevano scontato questa cosa. Cioè è un discorso che non le sta bene. Anche qua, regolarità di affitto, ma le sembra normale che il vicepresidente della Regione Lazio, Montino, cioè la Regione Lazio che dà miliardi di euro alla sanità e nel Lazio sono pieni di istituti cattolici della Chiesa, viva in una casa a condizioni così di favore sebbene abbia fatto i lavori? Ecco, questa è la ricattabilità che lei dice. Però che dovrebbe fare? Cioè, nel senso, Propaganda Fide tiene gli immobili, non li affitta perché non li può affittare a un politico, perché altrimenti per questo no, è... No, al politico, non è Propaganda. Propaganda Fide fa quello che gli interessa e fa bene. È il politico che ovviamente ha un onere di trasparenza e, ad esempio, la nostra anagrafe pubblica degli eletti, di cui chiediamo, avrebbe dovuto rendere pubblico il politico ogni volta eletto di dove vive e come vive, perché è importante, così come è importante sapere se uno ha azioni di una società piuttosto che un'altra. Se uno ha azioni di una società di armi e poi fa il militarista, probabilmente è cittadino. Va bene, sentiamo Giovanni da Roma, che ne pensa. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Lei, allora, dice. Detta, considerai superata l'aspetto della stucchevolezza riguardante delle case agli sfrattati, del patrimonio della. Quello che però adesso volevo segnalare, anche in riferimento all'ultimo intervento, quello di poco fa, è che c'è sempre un filo di ipocrisia quando si parla di coloro che sono poi gli assegnatari di queste case. In un paese che vive sulle relazioni, sulle conoscenze, sulle modalità di, come dire, trarre qualche piccolo vantaggio dal sistema di relazioni che ha costruito, è inimmaginabile che in questo, come a Roma, si possano arrivare all'assegnazione di queste case se non per conoscenze, se non per contatti diretti. Vabbè, ma le conoscenze, e a lei questo sconvolge, cioè, nel senso, se assolutamente, quindi mi sorprende questa ipocrisia generale rispetto al fatto che ma il problema, Giovanni, non è questione di dire avere una casa, cioè uno ha bisogno di una casa, chiede, che ne so, a uno di Propaganda Fide perché lo conosce, se c'è un immobile e c'è l'immobile. Il problema è se tutto questo viene fatto poi a prezzi di mercato, giusto? Secondo Stadellini, il problema è anche che un politico, per esempio, dovrebbe chiedersi due volte, o se non tre o quattro, se è il caso di prendere una casa in affitto da Propaganda Fide, se poi deve firmare o avere a che fare con leggi che magari coinvolgono anche interessi del Vaticano. Comunque, ci fermiamo ringraziando tutti per essere intervenuti. Sara Spirafico in redazione con Peter Bescapè in regia. E allora, alla Zanzara ci siamo 18:30 e se no ci siamo anche domattina 7:30. Ciao.